A tutti, questa volta diciamo, io ho presentato già diversi libri qua e tutti avevo un legame di interesse più o meno esplicito. Questa volta invece il mio interesse non solo è esplicito, ma sono in parte coinvolto nella produzione del testo che stiamo presentando, perché io ho fatto la traduzione. Però prima di parlare, no, della mia traduzione, ma prima di parlare del libro in se stesso, volevo dirvi perché io ho fatto la traduzione, può aiutare a spiegare un po' il libro stesso. Io faccio il traduttore e traduco un po' di tutto, ma non è che mi cerco il lavoro, perché il lavoro ne faccio un altro, e quindi faccio il traduttore un po' per passione. Ho tradotto varie cose, saggistica anche, ma ho tradotto tanti libri di cucina, per esempio. E quando ho letto il libro di Tony, io ho letto il libro di Tony appena il libro è uscito, come faccio di solito con i libri di argomento sul tirolese, sono rimasto estremamente colpito, ero molto entusiasta, anche perché questo libro era un po', diciamo, un prodotto nato al lato di un'altra opera di tipo saggistico alla quale Tony aveva partecipato, lo ricorda nelle note finali, è questo volume del professor Baur e Dietmar Larcher, Fit für Europa, Erfahrung mit der Mehrsprachigkeit in Südtirol. Questo è un testo, diciamo, di impianto scientifico che, come molti testi di questo genere, si basa su un numero consistente di interviste e di questionari, anzi di interviste vere e proprie, no? Tony era uno delle persone che aveva fatto questa intervista, cioè era quindi nel comitato scientifico che ha prodotto poi quest'opera più teorica sul plurilinguismo altoatesino, e ha avuto, secondo me, l'idea originale e estremamente riuscita dal punto di vista letterario di usare queste interviste come materiale narrativo. Quindi questo è il quadro originario. Nel momento in cui io però ho letto queste storie, ho capito quello che per tanto tempo ho cercato anche di capire con altri mezzi, cioè con mezzi, diciamo, più rudimentali, i miei, e meno strutturati, quelli invece usati per esempio da Bauer e da Larcher. Ovvero, perché noi che siamo una provincia nominalmente plurilingue, facciamo fatica a vivere serenamente questa caratteristica, e generalmente quando parliamo del plurilinguismo in Alto Adige la presentiamo sempre come situazione problematica. Quindi da anni ci sono delle persone che si affannano a ricercare i motivi e eventualmente cercano le soluzioni per questo tipo di problema, però sono tutti discorsi che rimangono sempre un po' teorici, che comunque non entrano mai, come dire, nelle motivazioni individuali che generano questa difficoltà. Tony invece, con la sua sonda letteraria e anche epistemologica, riesce, secondo me, forse in un modo estremamente interessante, più interessante di tanti altri volumi, a farci capire come nasce questo impaccio e questo impiccio del plurilinguismo sul tirolese. Ce lo fa capire proprio attraverso la voce, diciamo, di protagonisti che sono poi ragazzi di un'età, credo, ventenni al tempo, 18 anni, quindi persone che hanno per esempio vissuto un'esperienza scolastica per lo più deludente, ma non solo, ma direi soprattutto che hanno biografie diversissime le une dalle altre, hanno biografie talmente diverse le une dalle altre che una delle mie dati più interessanti dalla lettura di questo libro è che uno ho capito il problema del plurilinguismo in Alto Adige. Non c'è questo problema, ce ne sono svariati tipi, e soltanto, era la mia idea di fondo quando ho letto il libro e quando ho cercato di sintetizzarlo poi in un articolo di giornale, quando ho fatto la recensione di questo libro, soltanto capendo le varie tipologie biografiche e al limite addirittura distruggendo l'idea stessa di tipologia biografica, entrando proprio nel vissuto individuale, che è possibile fare qualcosa per migliorare il nostro approccio al plurilinguismo. Adesso faccio subito delle domande a Tony, ma prima vi voglio raccontare un aneddoto di fresco, di 2 giorni fa. Vero, vero, assolutamente vero. Io faccio l'insegnante, tra le altre cose, nel senso che fondamentalmente faccio l'insegnante. E insegno esattamente italiano nelle lingue, in una scuola di lingua tedesca superiore, non vi dico quale perché non è interessante, comunque è una scuola dove ho 14 fino a 18, fino anche a gente adulta. E generalmente verso novembre, perché chi ha più classi ci mette di più, si riesce ad avere un quadro un po' completo di chi hai davanti e chi sa, chi non sa. E io una volta ho visto, c'era una che piangeva, era assistita da una collega, collega peraltro di lingua ladina, che l'assisteva, la consolava, e io ho detto, ma pensato, avrà dei problemi sentimentali, è una ragazza diciamo di 17, di 18 anni, avrà problemi sentimentali. Poi piangeva, ho detto, ma senti, se volete uscire, andate fuori, magari risolvete il problema se non riguarda la classe. E questa mi fa, questa non che piangeva ma l'altra, no, e riguarda la classe, perché lei non capisce nulla di quello che lei dice da 2 mesi e si vergogna e non sa come fare. E io ho detto, ma prima di tutto come fare? Prima di tutto devi stare tranquilla, ho cominciato a parlare tedesco, gli ho detto, prima di tutto devi stare tranquilla perché ognuno ha la sua storia. Tu sei arrivata a 18 anni senza capirci una cavolo di parola di questa lingua, no? Ci saranno dei motivi. Ci sarà, non perché tu sei cattiva o sei sbagliata, cioè ci sono dei motivi. Allora lì cosa bisogna fare? Bisognerebbe chinarsi su questa persona e farle scrivere un racconto come questo, in cui lei ripercorre la sua vita e comincia a mettere a fuoco dov'è che si è inceppato il meccanismo o dove il meccanismo non è mai partito. E allora comincerà a parlare della sua famiglia, comincerà a parlare dei suoi amici, comincerà a parlare della zia, della nonna, parlerà di quello che parlerà. Si apre un tessuto estremamente insondabile, ma sondabile solamente attraverso il ricordo e la ricostruzione, e forse riuscirà a capire dov'è che a un certo punto il blocco è diventato insormontabile, fino a quando ha creato praticamente un vero e proprio trauma, una situazione di angoscia e di dispiacere, di tristezza, di sofferenza, perché questa non è una che se ne frega. L'altra mi diceva, lei vorrebbe, ma non ci riesce, perché mentre tutti gli altri sono avanti, chi rimane indietro a un certo punto si dà per perso. E se poi la lingua ti serve e vedi che in qualche modo anche ti piacerebbe conoscerla e non ci riesci, ci sono dei problemi. E i problemi si risolvono soltanto narrando. Questo secondo me è la grande utilità di un libro come questo, che oltretutto è scritto anche molto bene. Ora io su questo devo dire, lo stile in cui è scritto questo libro in tedesco, io lo consiglierei in tedesco, non mi faccio pubblicità. Ha un tedesco estremamente affascinante, perché è secco, molto ritmato, con una bellissima paratassi, agile, e è veramente piacevole. Ecco perché io poi sono stato stimolato a cercare di riscriverlo. Io ho fatto un lavoro poi alla fine che io non riesco a giudicarlo, perché avendolo fatto io non riesco a giudicarlo. A Tony non è piaciuto. No, abbiamo dovuto, abbiamo, ci siamo visti tante volte in cui lui mi diceva giusto, no? E perché poi lui è l'autore, oltretutto tradurre una persona come Tony, che conosce finissimamente tutte e due le lingue, quindi sapeva perfettamente quale tipo di sfumatura. è come affidarsi a un carnefice per certi versi, no? Si traducono benissimo le persone che non capiscono niente della tua lingua e quindi sono già contenti che tu lo fai e dicono ostia, no? Invece il Tony stava lì giustamente con la lente in ingrandimento e guardava tutte le spigolature e diceva no, ma qui io intendevo qualcosa di diverso, qui perché non hai trovato una soluzione migliore? E comunque, ma poi alla fine il libro, insomma, alla fine lui si è deciso di dare il placet e ce l'abbiamo anche in italiano. Voglio dire, tutte e due. Meglio, ecco, meglio sarebbe comprarli tutti e due, leggerli e fare un confronto. E lì, diciamo, la voglia. Allora, adesso diamo la parola a Tony. Tony, tu... Com'è? Cioè, perché secondo te questo libro, no perché deve essere letto, perché questo è ovvio, ma come, raccontaci un po' la ratio di questo libro, meglio di me perché io ho fatto l'introduzione un po', però dai. Prima di tutto ti ringrazio e soprattutto voglio dire che la traduzione, è chiaro che però sai quando si fanno le traduzioni si è in due e si discute, mi sembra anche giusto che sia così e così siamo andati avanti, non ho discusso. Adesso il libro è qua, si chiama Storia di Lingua, in tedesco si chiama Reden, ci abbiamo discusso anche a lungo come tradurre il titolo e così via. Comunque questo mio figlio ha detto ma perché non l'avete chiamato Parlare? Mio figlio che è perfettamente bilingue, ha detto bravo. sì, comunque ha 8 anni, ho detto aspetta un attimo. No, il libro è nato per caso, veramente per caso, ed è una specie di effetto collaterale di questa ricerca appunto della quale ha già parlato Gabriele, che io svolgevo insieme ad altri con un gruppo in giro per l'Alto Adige con interviste a questi ragazzi che erano nell'ultimo anno delle superiori. Interviste abbastanza lunghe, alle volte interviste collettive, interviste singole, lunghe 1 ora, 2 ore, 3 ore, cioè dipendeva un po' anche da come si riusciva ad andare avanti in queste cose. E mi si è aperto un mondo nuovo. Io devo dire, mi occupo di questa cosa da sempre, cioè... Da sempre io ho fatto le superiori, io sono riuscito in 5 anni di frequentare 5 scuole superiori diverse in Alto Adige, cosa che penso sia un record. Comunque poi dopo ho studiato in Italia, in Germania, mi sono sempre occupato di queste cose. Ho insegnato il tedesco agli italiani, sto facendo adesso una volta all'anno un corso di dialetto dialetto sudtirolese per... italiani, sì. Appunto. Tema presentissimo qui dentro. Tema presentissimo. E ho pubblicato anche un po' di materiali didattici su questa cosa qua, però mi si è aperto ugualmente un mondo nuovo. Ho capito che con tutto quello che noi produciamo a livello giornalistico, a livello saggistico, a livello scientifico e così via, non tocchiamo il tema. I ragazzi vivono in un altro mondo, cioè la loro vita con la lingua, io adesso non mi interessavo dei loro amori o dei loro rapporti con i genitori o col mondo del lavoro, ma con la lingua, prima di tutto è un rapporto intenso e nasce da piccoli, cioè perché abitiamo effettivamente in un posto dove le due lingue, anche per chi non vuole, sono presenti e bisogna prendere posizione, anche a 6 anni, a 6, a 7 anni, quando è, bisogna prendere posizione, o piace o non piace. Poi questo piacere o non piacere dipende molto dal caso, dalla vita, dalla fortuna, cambia, non cambia. E così ho pensato di raccontare ciò che loro mi raccontavano, solo che non potevo farlo, io non potevo adesso riscrivere la vita di questi ragazzi pari pari, e perciò mi sono inventato delle storie inventate, appunto, utilizzando però il materiale che avevo, ovviamente anche un po' di esperienza mia e così via. Comunque sono delle storie che Io all'inizio scrivo, com'è che dico? All'inizio? Sì, tutto quello che qui viene raccontato è vero, è stato vissuto, incontrato, raccontato, anche solo pensato dai ragazzi dell'Alto Adige. Le storie che raccolgono questi racconti sono invece inventate. Eventuali somiglianze con biografie reali sono puramente casuali e non è escluso che ciò possa, perlomeno per frammenti, accadere, cioè che si coincidano. Queste coincidenze non svelano tuttavia nulla sulla vita delle persone alle quali si può pensare di attribuirle. Ecco, questo è. L'idea è quella che sono storie possibili, realmente possibili. E sono storie di persone. Adesso vorrei partire proprio da un'altra aspetto. Timide, persone aperte, chiacchierone, persone arroganti, persone piene di sé, persone invece che si trovano solo chiuse. Tutti questi aspetti entrano tantissimo nella storia, nel rapporto che si ha con la lingua. Scrivendo questa cosa, poi dopo, ovviamente ci ho pensato che noi adesso siamo su questo pianeta 6 miliardi di persone o più o meno, una cosa così, delle quali 4 miliardi sono bilingui di sicuro, cioè nascono e parlano non quotidianamente, però nella loro vita normale più di una lingua, la usano una volta questa, una volta quell'altra. Gli altri 2 milioni usano almeno vari registri della stessa lingua. Quando si va in un ufficio si parla in un modo, quando si è a casa si parla in un altro, con l'amore si parla in un modo, a scuola si parla in un altro e così via, al lavoro. Perciò siamo comunque sempre tutti plurilingui, cioè non esiste l'idea del monolinguismo. E questo risulta anche tantissimo dai ragazzi, soprattutto da parte tedesca, ma anche da parte italiana. Da parte tedesca c'è una doppia lingua immediata, che è il dialetto e la lingua, che è un'esperienza che tutti i ragazzi che nascono, che crescono in Alto Adige fanno. Ci sono delle storie bellissime, degli shock di alcuni, poi tutte le strategie come risolvere questi problemi, perché di solito si è soli, no? Anche a 6-7 anni, cioè ti trovi in una situazione e non sai a chi rivolgerti, perché se ti rivolgi a qualcuno ti dà magari qualche cosa, non ti prende sul serio perché il problema non è abbastanza grosso, cioè devi elaborare in qualche modo delle strategie per entrare in contatto con queste persone. Ecco, questo ho voluto raccontare, anche queste strategie, non lo so, ci sono anche degli episodi abbastanza divertenti. La persona che per la prima volta si trova facendo uno stage alle superiori, al comune, in un comune, e che ha avuto amici tedeschi e un po' lo sa e così via. Però per la prima volta si trova a prendere la cornetta del telefono e dall'altra parte gli parlano in tedesco. Cosa che non era una cosa che rientrava nella sua visione del mondo. Perché il tedesco era al massimo lo si incontrava, lo parlava una persona che si vedeva, che in qualche modo si poteva trovare delle strategie, cioè al limite si poteva andare via o qualcosa si poteva fare. Però al telefono a un certo punto è solo suono, non è più persona, e anche lì bisogna trovare il modo per cavarsela. In realtà i racconti di questi 17 racconti, che sono queste 17 biografie di ragazzi, sono un po' un elenco di queste strategie che ognuno, sulla base del suo carattere, della sua storia, della sua famiglia, dei rapporti della famiglia, degli amici, dei fratelli e così via, trova per gestire in qualche modo il problema del dialetto, della lingua, del bilinguismo, del tedesco, dell'italiano, dell'inglese, anche perché poi dopo ovviamente tutti questi ragazzi adesso si fa l'inglese dalle medie, cioè tutti sanno anche chi più chi meno l'inglese, tutti dicono ovviamente di sapere l'inglese molto meglio della seconda lingua, poi io non ho verificato e ho molti dubbi sul però il senso che hanno è che l'inglese sia più facile, la musica ovviamente, per i ragazzi la musica è una cosa importantissima. Ecco, mi fermo. Sì, no, no, ma vai. Io ho mica fatto, io faccio, è un tic che ho, faccio. Allora, questa cosa sottile ma molto interessante delle strategie di Spalding, c'è una citazione di Wittgenstein che io non so, riferire diciamo al testo preciso, ma credo si trovi più o meno nelle Philosophische Bemerkungen, in cui dice a un certo punto se non riesci a oltrepassare la pietra, gira intorno. Pensando al rapporto che abbiamo qui, il rapporto teorico con il plurilinguismo e con le sue difficoltà, noi facciamo molte esperienze quotidiane di picchiare la testa contro la pietra, cioè di picchiare la testa contro la pietra e di immaginarci di trasvolarla, che è impossibile. Che si rompa. No? O che si rompa o che si dissolva la pietra. Come dire, o cerchiamo la formula che dissolve la pietra o cerchiamo qualcuno, quindi non noi, che ci sollevi. Ci viene raramente in mente di girargli intorno. Girargli intorno significa trovare noi la strada, ma chiaramente si allunga la via, la via è più lunga. Allora adesso io vi leggo, questo tenetelo a mente perché poi dopo ci torneremo o ci tornerò su questa storiella della pietra. E, desidero citare l'apertura della 13ª storia perché è sintomatica, e adesso vi dirò perché secondo me è sintomatica e chiederò a Tony di esplicitare questa sintomaticità. Dice questo tizio di lingua tedesca: la volta che in vita mia ho parlato più italiano è stata quando ero a Berlino. Curioso, ma è proprio così. Sicuramente più che in classe, e anche più di quella volta che eravamo insieme a Napoli. È andata così. L'anno scorso la nostra classe ha fatto un gemellaggio con una classe del vicino liceo italiano. Era un progetto della scuola, è durato alcuni mesi. Prima ci siamo scritti delle mail, la scuola accanto. Ci siamo presentati e roba del genere. Poi una volta gli italiani sono venuti in classe nostra e noi siamo andati da loro. Alla fine siamo andati insieme a Berlino per una settimana. Eravamo insieme in aeroplano, abitavamo nello stesso hotel, avevamo lo stesso programma. Ci vedevamo sempre, tutto il giorno, anche la sera. Bisogna anche dire che gli italiani sapevano pochissimo il tedesco. Dovevamo sempre tradurgli, descrivergli o spiegargli qualcosa. In questo modo il contatto diventa più stretto. Così ho parlato molto italiano, anche troppo per le mie abitudini. Questo è straordinario. Cioè, questo tizio di lingua tedesca, che parla poco a scuola, nel suo ambiente non parla mai. Sono stati anche a Napoli. Si dice, si fa la gita a Napoli dove... Oh, sei a Napoli. Però stanno un pullman e con altri... E hanno parlato una parola nemmeno lì. Quando è che riescono a parlare tedesco? Quando finalmente... italiano. Quando qualcuno li porta a Berlino, dove in teoria sarebbe stato più utile per gli altri... Ma il fatto che questi altri non sappiano la lingua obbliga questi altri a fare dei mediatori, e a Berlino sono loro che imparano l'italiano. Cioè, tutta una catena di paradossi. Il primo paradosso è quello che molto spesso, anche a me, colleghi magari di altre regioni, no, mi chiedono, ah vabbè, ma laggiù certo è facile, no? Siete vicini, quindi il tedesco lo parate per osmosi e così via. Io ho sempre molta fatica a spiegargli che la vicinanza crea quella che Siegfried chiamava insidie, ma che in realtà si può chiamare una vera e propria necessità della diffidenza. Cioè, tanto più sei vicino e tanto più produci lontananza per certi versi, per in qualche modo attutire o perché non sai gestire questa vicinanza. Adesso, queste sono strategie casuali, ma il caso gioca in tutta sta vicenda un ruolo determinante, perché se io mi innamoro della mia vicina di casa, di altro che parla un'altra lingua, è un caso che mi piaceva lei, e imparo il tedesco in 2 settimane, E a scuola invece ci sono stato 7 anni e non ho imparato una parola. Il caso è importante. Però prima di andare sul caso, tornare sulla pietra e provare a girarci intorno, mi piaceva da te un paio di statement, visto che sei un osservatore, come dire, uno dei più acuti dei quali disponiamo noi in questa provincia. Perché la scuola non ce la fa? Siamo noi che ci aspettiamo troppo dalla scuola, oppure la scuola è veramente la tomba di questa roba e sarebbe meglio, no? Invece che queste famose 2500 ore, farne 13 e provare 13 ore, 20 ore di insegnamento obbligatorio, 20 ore si possono sopportare nel giro di, no? E provarci delle strategie che in qualche modo amplifichino il potere del caso, perché con la programmazione o col tipo di programmazione alla quale siamo stati abituati non funziona. Perché non funziona? In tedesco c'è una differenza che l'italiano probabilmente ce l'ha anche, adesso non mi viene, però in tedesco mi viene, e c'è ich kann Deutsch, English, italienisch, no? Però non posso dire ich kann Physik. Il kenne di physik, di geografia, di was weiß ich was, ja, biologia ora was auch immer, Rechtswissenschaften und Ökonomie. Da conoscere poter fare. Eines ist etwas kennen. Un'altra cosa è essere capaci di fare qualcosa. E la lingua è quella cosa che noi können. Così come können sappiamo respirare, andare in bicicletta, tutte queste cose sono capacità umane. E il parlare è una capacità umana, e il parlare una lingua o due lingue o quattro lingue è un accidente intorno a questa capacità. Io adesso non lo so, però credo che l'istituzione scuola funzioni molto bene sul kennen, sul sapere, e riesca a trasmettere sapere. Difatti, quali sono le materie più difficili a scuola per i ragazzi? Sono le lettere e la matematica, che sono lingua l'una e l'altra. La geografia, la storia, la biologia, in qualche modo uno ce la fa, devi impegnarti un po' di più. Invece, sui linguaggi abbiamo più difficoltà all'interno delle istituzioni, perché è richiesto un altro tipo di approccio. Noi non possiamo imparare a respirare, eppure lo impariamo, perché in qualche modo lo sappiamo trattenere il fiato, sappiamo andare in apnea, impariamo a gestire questa cosa che sappiamo, perché siamo uomini, e una di queste cose è la lingua. Poi dopo, ovviamente, storicamente le lingue si sono differenziate e noi della lingua abbiamo fatto un sapere, abbiamo fatto una grammatica, una linguistica, una fonetica, Aristotele direbbe appunto la lingua si dice in molti modi, no? Oggi, tutti questi modi qua. Però un modo molto, secondo me, in tutto questo discorso, anche nel discorso sociolinguistico, che appunto sta alla base di questo studio, dalla quale poi è nato come effetto collaterale questo libro, anche nell'aspetto sociolinguistico, quello che viene trascurata è questa approccio, cioè questa capacità umana di parlare. E consideriamo di nuovo la lingua come una cosa, come da un punto di vista grammaticale, come una serie di strutture e regole. Da un punto di vista linguistico, come un insieme di segni con significati e regole e così via. Da un punto di vista sociolinguistico, come un insieme di gruppi di parlanti. omogenei, poi omogenei non sono mai, perché ovviamente l'omogeneità, questa è la stessa cosa che dice i matrimoni misti, cioè tutti i matrimoni sono misti, cioè così tutte le lingue, se io parlo con te, noi parliamo due lingue diverse, per forza di cose, non possiamo parlare la stessa lingua, perché siamo due persone diverse. Questo è l'aspetto che all'interno di questa reificazione della lingua, di questo fare della lingua una cosa, un sapere, un qualcosa di astratto, come lo è appunto la misurazione del mondo di Vermessung der Welt. Adesso c'è un film bellissimo su Humboldt, che è un sapere, cioè, noi ci mettiamo lì, mentre la lingua è questa capacità, facoltà umana, e lì bisogna vedere quanto la scuola lo sappia fare e quanto la scuola è cosciente che è una cosa diversa che non insegnare la biologia. Senti, questo è chiarissimo. Adesso io, fa parentesi, mentalmente noi abbiamo cominciato puntuali e io generalmente faccio sempre 50 minuti scolastici, nonostante poi Wittmann magari si arrabbi e diga da noi l'ora tonda, la recupereremo in un altro modo, forse sì. Ovviamente documentando che stiamo recuperando, però la mia idea era quella di parlottare con Tony 50 minuti e poi di aprire invece, perché io credo che anche stimoli vostri potrebbero, noi stiamo cercando semplicemente di orientare una eventuale discussione che forse non potrà basarsi, diciamo, sulla lettura del libro, che però io auspico vivissimamente e quindi sollecito al più presto che venga fatta, ma comunque, diciamo, può essere anche in qualche modo fatta la discussione anche senza conoscere il libro. Però volevo magari portarti così, magari rischiando un po' la polemica, ma per finta, perché poi lui siamo quasi, quasi d'accordo su tutto probabilmente, questo è anche un po' un difetto di quelli che si occupano tanto della stessa roba e alla fine arrivano a... visto e considerato che abbiamo un pubblico probabilmente di madrelingua italiana, se non esclusivamente, siamo all'interno di una struttura tipicamente, diciamo, iscritta in questo mondo diviso, no? Der geteilte Himmel, come diceva la famosa scrittrice tedesca, la Christa Wolf, grazie Renato, meno male c'è Renato in fondo che suggerisce, e il cielo diviso. Allora, uno dei temi polemici più forti da parte del gruppo linguistico italiano storicamente, anche se adesso si è un po' affievolito perché poi pare che alla fine si sia ottenuto quello che si cercava, ma domanda successiva, si è poi raggiunto effettivamente, si sono raggiunti effettivamente dei risultati in solido su questo, è quello, dice, modifichiamo il cosa, no? La reificazione, come hai detto te, la lingua non è un oggetto ma è un ambiente nel quale noi stiamo, no? E dobbiamo cominciare a usare. Non è possibile farlo a scuola perché la scuola tratta le lingue come se fossero delle materie e non può invece trasmettere la conoscenza che è poter fare qualcosa. Allora, il poter fare qualcosa è stato visto da notevoli ricercatori come, usiamo la parola che viene usata sempre, immergere le persone all'interno di un contesto linguistico vivo. Quindi non insegnargli le declinazioni o magari la letteratura, perché uno, se non gli interessa la letteratura, oppure la vede in modo... semplicemente fargli le materie delle quali poi tutti hanno bisogno in quella lingua lì, fargliele in quella lingua lì, cioè spingere praticamente le persone a usare l'immersione linguistica. Sull'immersione linguistica un dibattito feroce, perché contrasterebbe o contrasta in parte o in toto il principio secondo il quale la lingua deve essere insegnata come lingua e non può essere insegnata veicolarmente, perché questo distruggerebbe uno dei pilastri dell'autonomia, l'articolo di ciò e compagnia. Tipo cosa nel quale si pensa che la lingua sia una cosa. Esattamente, esattamente. No? Questo è un tipico aspetto. Esattamente. La lingua come lingua è quella cosa lì, sotto vuoto spinto. Ecco, secondo me, in questo libro, da questo libro viene fuori, il tema per esempio è trattato chiaramente in modo ironico e calato nelle varie biografie, cioè non c'è un capitolo che si chiama Immersione, in cui uno capisce come Tony la pensa su questo tema, però si capisce che Tony su questo tema ci ha riflettuto molto, e io mi sembra di aver capito a mia volta che questo tema, su questo tema è stata fatta forse una battaglia, anche se giusta per molti versi, una battaglia che non metteva a fuoco invece proprio la vera complessità della faccenda. Non so se tu sei d'accordo, come la vedi tu, diciamo, con questa storia un po' delle ricette che ci farebbero, no, finalmente spiccare il volo sopra la pietra o dissolvere la pietra, ignorando poi il fatto che la pietra comunque è più grossa o più robusta di quello che sembra, e che alla fine ci devi girare intorno comunque, e girandoci intorno la tua strada te la devi trovare te, non c'è qualcuno che te la ti garantisce l'ottenimento. Bella domanda, dai anche la risposta. No, mi fermo. No, io non lo so come, io veramente io non lo so come si insegnano le lingue, non ho la minima idea, e penso di non essere l'unico, ecco. No. Cioè, nel senso che dubito che qualcun altro veramente lo sappia, però so una cosa, che tutte le persone possono parlare 3, 4, 5, 6, anche 10 lingue, e su questo non c'è dubbio. Cioè, ognuno ha la capacità di parlare più lingue e la possibilità lo può fare. Adulti, bambini, anziani, cioè non esiste questa cosa, a parte, però adesso questo è un altro aspetto nel quale adesso non vorrei entrare. Noi abbiamo qui, con a suo tempo l'introduzione dell'autonomia e di tutte queste cose della difesa della minoranza linguistica e culturale tedesca, introdotto il principio sacrosanto che ognuno ha il diritto di parlare la propria madrelingua. Però abbiamo interpretato questo principio, adesso vorrei, io sono di formazione filosofica, perciò tanto mi vengono questi pensieri silogistici. Abbiamo interpretato questo diritto come diritto al monolinguismo. E nessuno al mondo ha il diritto al monolinguismo, non esiste, cioè tra i diritti degli uomini non c'è il diritto al monolinguismo, c'è il diritto alla madrelingua, che sono due aspetti molto, molto diversi, no? Cioè noi abbiamo interpretato il diritto alla madrelingua come diritto che in ogni caso, qualsiasi cosa tu faccia, tu devi usare sempre solo quella lingua lì, cioè che è monolinguismo, che non è più madrelingua, e in questo senso ci siamo, per dirla così, incasinati. Cioè abbiamo, e da lì non siamo più usciti, e abbiamo cercato di trovare le soluzioni più varie. La prima, che io mi ricordo, erano le questioni didattiche, l'insegnamento comunicativo, poi è arrivato l'insegnamento precoce, poi è arrivato l'insegnamento ad immersione, poi, e sono tutte esistono persino il silent way, cioè insegnare la lingua stando zitti, che è una buona idea. Esistono varie, e probabilmente tutte queste metodologie didattiche hanno un qualche punto forte e possono funzionare in qualche modo, però non sono, prima di tutto non valgono per tutti. La cosa più importante per me, raccontando queste storie, era questa, che la lingua, proprio perché è una capacità umana, come quella del pensare, dell'amare, del gestirsi la vita, è una cosa individuale, ognuno se lo fa a modo proprio, così come si gestisce la sua lingua, che poi è la lingua intima, la lingua formale, la lingua del lavoro, cioè tutti gli aspetti della sua lingua in maniera autonoma, appunto come noi non parliamo la stessa, così si gestisce anche le altre lingue, non si può trovare una metodologia che vale per tutti. purtroppo non siamo ancora macchine, un giorno lo saremo e probabilmente funzionerà, al momento non funziona ancora, perché ognuno ha un approccio diverso. E quello che io volevo appunto raccontare, 17 di questi possibili approcci, che non sono, io insegno ogni tanto e vedo che ci sono delle persone che per la loro biografia, per la loro sicurezza, per il loro modo di essere, hanno bisogno della sistematizzazione grammaticale delle cose, e si sentono più sicuri, essendo più sicuri si sentono anche più invogliati a usare la lingua, a proporla e così via. Altri invece con queste cose non ci capiscono, si confondono. Cioè, oppure perdono tutto il tempo a imparare la regola, che per imparare la lingua non rimane più nulla. Basta? Sì, adesso ti faccio l'ultima domanda e poi... L'ultima domanda ci tengo perché secondo me è una parabola... ma tutte 17 sono parabole esemplari. E come ogni parabola, evangelicamente... come dire, narra di noi la favola, nel senso che alla fine uno è chiamato a attivare questa funzione di autorispecchiamento. Io quando lo traducevo, questo libro l'ho fatto leggere alcune storie ai miei ragazzi della scuola, Madonna, proprio come delle ventose, perché dicevano, sì, anch'io ho avuto questo tipo di esperienza, anch'io ho visto, è uguale, è successo anche a me. Per esempio, guardate questo attacco meraviglioso della 12ª storia di un italiano che dice: accadeva ogni anno durante il carnevale. I ragazzi italiani, a dir la verità erano ancora bambini, si riversavano per i vicoli del paese diventato città, armati delle loro bombolette di schiuma. Era scattata l'ora della battaglia contro i tedeschi. Ci si incontrava a gruppi, fischiando e urlando, poi ci si divideva per appostarci dietro siepi e muretti. Dopo aver imbrattato di schiuma la testa di un ragazzo tedesco, si scappava. Il massimo però era riuscire a spruzzare in faccia una ragazza tedesca o dentro al colletto del suo cappotto. Era un trionfo che si festeggiava con danze di gioia. Questa è una storia, io credo, forse, non lo so, perché io peraltro sono venuto qua, e adesso di questo volevo anche un po' parlare, sono venuto qua in un'epoca e con un'età in cui purtroppo non andavo in giro a spruzzare di schiuma nessuno, ma non è detto che poi magari... Non venga ancora, in tarda età uno torna, diciamo, a delle pulsioni. E sono venuto in una situazione in cui non c'era conflitto, il conflitto non c'era più. Sono venuto nel 97 a Bressanone, prima a Bibiteno, poi a Bressanone, e devo dire il conflitto famoso, del quale nemmeno avevo letto tanto, ma ho cominciato a conoscere, che è un deterrente, il conflitto è sempre un deterrente alla conoscenza reciproca, perché quando tu devi in qualche modo mettere un bastione tra te e gli altri perché hai paura che gli altri ti tolgano qualcosa, e questa faccenda era e forse è in parte reciproca, questo io non l'ho più visto. E ho visto in teoria un buon contesto nel quale avvicinarsi alle lingue, cioè quello dell'autonomia compiuta. Il tizio che inizia questa storia parlando del carnevale e di queste lotte finisce, e non vi dico come finisce, ma finisce in modo diverso, cioè fa delle esperienze, è una vera e propria fenomenologia des Geistes, cioè quindi il suo spirito muta e, attraverso delle tappe di avvicinamento a livelli di conoscenza o di coscienza superiore, e poi vedrete che alla fine addirittura non cambia radicalmente, ma comunque rivede la sua posizione iniziale. La domanda che ti faccio, un po', diciamo, da così appassionato di storia, ma viro anche un po' sulla sociolinguistica, vista appunto alla luce di considerazioni storiche, è se tu ritieni che da questo momento conflittuale, che ovviamente negava la possibilità di un avvicinamento, eccetera, quanto l'autonomia ha contribuito a raggelare le possibilità esistenti, quanto invece esistono potenzialità inespresse, e come secondo te si può fare per migliorare, se non in un modo solo, perché questo ormai l'abbiamo capito, non c'è la ricetta, non c'è l'autostrada, ma com'è possibile, diciamo, cominciare a frequentare dei vicoli di questa città linguistica periferici, nei quali però insomma la comunicazione funziona un po' meglio di come è funzionata finora. Questa sarebbe, diciamo, la confezione della domanda. Tu puoi anche poi dire cosa ti pare senza concludi, no? Questo è un po' un invito a concludere e poi a piangere. Io non so, i meriti e i demeriti dell'autonomia è una domanda troppo difficile. Non lo so, io ovviamente devo dire che mi arrabbio molto ogni volta che mi arrabbio tutti, irrito ogni volta che qualcuno, non conoscendo la storia locale, si mette a giudicare, a pontificare su quello che si dovrebbe fare. Questo vale per i politici, i giornalisti, vale anche per i cosiddetti scienziati, no? Politici, cioè, tipo, parliamo male anche di politici, perché parliamo... vale per i politici, per i giornalisti, vale anche per i cosiddetti scienziati, cioè quello che voglio dire, non è solo una questione di polemica politica e di affermazioni di nazionalismo bieco per avere due voti in più e uno in meno, ma è una forma mentis che purtroppo è presente anche in moltissimi lavori, diciamo così, scientifici o storico-scientifici o psicologico-scientifici sull'Alto Adige. Mm-hmm. Cioè questo è molto diffuso. È chiaro, noi dal 700 abbiamo deciso che siamo nazioni, cioè che esistono le nazioni, che i popoli sono nazioni. No? Però questo è un fatto storico, così come sono molti altri fatti storici. Ora noi possiamo essere contenti di questa cosa, come siamo contenti che poco dopo, insieme a questo, è nato anche tutto l'illuminismo e insieme all'illuminismo tutta la nostra società così come la conosciamo. Però sono personalmente credo che siano in declino un po' tutte e due, sia nel senso della nazione, del popolo-nazione, che il senso della democrazia rappresentativa intesa Montesquieu. Non so adesso come si possa applicare questo precisamente all'Alto Adige, però l'Alto Adige fa parte della storia dell'Europa, cioè non ci sono... Non credo, a parte l'amministrazione delle centrali elettriche, tutto il resto noi si accentriamo con tutto quello che succede in Europa, poi anche con le centrali elettriche, poi non è che cambia molto, però sono stupito da questo esempio. Anche quelle poi sono molto simili come succede in altre parti del... Però cioè, l'amministrazione spicciola cambia. Chiaro, noi abbiamo l'autonomia ha permesso delle grandi cose, ha permesso il mantenimento della popolazione in montagna, per esempio, cosa che per me è uno dei meriti dell'autonomia. Non ha permesso il fatto che la gente diventi bilingue, è uno dei demeriti, non lo so. Non è mica obbligatorio, non ce l'ha detto il medico che bisogna essere bilingue. Forse ci si capirebbe meglio se non si fosse. Guarda, c'è anche gente che litiga che conosce le lingue reciproche, cioè non è detto che la conoscenza delle lingue porti automaticamente a una migliore conoscenza, a minor conflitto. Io posso dire, ma mi diverto a dire questo. Cioè, questo libro è veramente singolare. Perché è forse una delle voci meno predicatorie da questo punto di vista che si può. Cioè, in una terra in cui su questo tema, anche involontariamente, a chiunque viene la voglia di predicare, o in un senso o nell'altro, qui non c'è nemmeno mai l'accento predicatorio. C'è l'esibizione di un contesto frammentato, contraddittorio, vario, in cui una ricetta annulla l'altra, in cui si intuisce chiaramente che le esperienze positive di questo libro, gente che è contenta e gente che impara più lingue, non c'è gente che è più contenta quando riesce a dimenticare l'altra. Questo è chiaro. Però è anche chiaro che effettivamente, insomma, leggete questo libro. Grazie. Sì. Ora non c'è quella che passa col microfono, però io faccio da moderatore, però invito la persona magari a dire come si chiama. Bortolozzi. Bortolozzi, signora, e rivolga pure la sua domanda e le sue considerazioni. Non sono neanche di quelli che dicono, però faccia la domanda. Dice, no, voglio dire qualcosa. No, deve fare la domanda. Se lei vuole dire qualcosa, così, mandare un saluto, faccia. Non siamo in TV. Perciò, basta. Comunque, ovviamente magari non lunghissimo, però dica. Sono due tre cosette, se no mi chiedo. Prego, non prego. So neanche qual è. Si indirizzi pure. La domanda non so neanche qual è. Io sono cresciuta, questo rapidissimamente, sono bilingue, ma mi vanto di non essere bilingue perché non so l'italiano, di essere bilingue psicologica. Quello è un altro fatto. Io vi darei subito un po' avete dimenticato la famiglia. Allora, io vado indietro ai bambini piccoli. Mm-hmm. I bambini piccoli nel tempo, adesso forse un po' di meno, ma io sono vecchia, quindi ecco, nel tempo più di tutto le famiglie italiane trasmettevano un odio per i tedeschi, perché lo sentivano dalla politica, la politica grandi, e non solo l'autonomia e compagnia bella, molto molto di più. A quel periodo, andate solo indietro di un po' di anni, trasferiva l'odio per i tedeschi, le famiglie lo sentivano e ne discutevano quando i bambini sentivano. Aveva un bel da fare poi la maestra con i bambini di 6 anni, ma no, guarda che sono simpatici anche loro, ecco. Riuscire a trasferire a quei bambini, voi forse alle scuole li avete già trovati più grandi, a quei bambini piccoli la simpatia voleva già dire aver risolto in parte il problema. Voleva dire trasferire la simpatia anche ai genitori, piantatela di dire al negativo, perché sennò noi a scuola. Poi volevo aggiungere un'altra cosetta. Quei bambini piccoli adesso perché va un po' male? Perché va un po' male la scuola. Perché nel frattempo hanno inventato le fotocopie. I bambini adesso a 6 anni. Non ci sono più le fotocopie, adesso ci sono. Mesi, non so se mi dà ragione. Ma se la crisi economica va avanti, penso che il problema sia quello più cali, perché non ci saranno più. Quando incominciano della scuola, dopo 4 mesi hanno un quaderno grosso così di fotocopie, dove loro non devono fare altro che magari al massimo metterci una cosa e dipingere. Io quello lo chiamo rubare, perché rubano metà dell'ora di tedesco, e poi dovrebbe essere conversazione. Allora vado un attimo, ancora una cosetta, poi non mi ricordate, se no mi manda via. Io sono convinta che ogni lingua si riesce ad imparare. Lei prima ha detto no, non so, non sono d'accordo, si riesce, e come si riesce? Claro. Uguale, nella stessa maniera, sì, lei sì. Non sa come il sistema, io lo so, credo di sapere. Sono contento. Uguale come il Padre Eterno ci ha dato la possibilità di imparare la lingua 1. Allora, rapidissimamente, il bambino nasce e per un anno e mezzo non fa nient'altro che ascoltare. A scuola, in prima elementare, dovremmo solo ridurre i tempi, ma fare la stessa cosa, fargli prima ascoltare. Poi fino a 6 anni il bambino non scrive, parla un po' alla volta. A scuola la stessa cosa, se sono 20 bambini e 19, un minuto state zitti perché uno parla, e poi tocca a te. Parlare, le fotocopie non servono, rubano e basta, il tempo è la possibilità. Vi garantisco io che io ho insegnato il tedesco di più, ho fatto la valse nelle scuole tedesche, ho fatto l'italiana nelle scuole, insomma, le tedesche nella italiana. In questa maniera io ho sempre insegnato molta conversazione, mi sono sentita dire dopo all'università, l'unica che ci faceva un po' parlare era lei, o agli adulti, la stessa cosa, sono 20 anni agli adulti. Bisogna seguire questo, ma la lingua non si può imparare, il bambino di un anno non scrive, ascolta e parla per 6 anni, riduciamo i tempi, il bambino piccolo deve ascoltare, non sentire l'antipatia a casa in famiglia. E poi vi garantisco io che i bambini parlano. La facciamo ministro della scuola. No, non è un'ironia, va benissimo. Io conosco il metodo, ho lavorato con questo metodo, conosco la sua diciamo così, il suo background filosofico viene da Chomsky tutta questa cosa. Ed è vero, io sono assolutamente convinto, la crescita della lingua straniera, così più o meno viene chiamato, della lingua altra, che è appunto in analogia alla crescita nella lingua 1, è sicuramente un modo. Tra l'altro non vale solo per i bambini, vale anche per gli adulti, vale per tutti, cioè, diciamo, credo che sia un approccio ottimo. Purtroppo è un approccio non utilizzato da nessuno. Non credo sia l'approccio unico possibile, ecco, questo è, no? Io lo so, mi sono occupato appunto di questa cosa. Noi abbiamo prodotto materiale audio per le scuole o i corsi e così via, e ci siamo sempre sentiti dire: troppo difficile, non si capisce, è troppo lungo, è troppo questo, è troppo quell'altro e così via. E non è difficile insegnare stando zitti, in questo modo Silent Way di nuovo, però questo è necessario. Poi io sono d'accordo con lei che questo sarebbe, sono molto più pessimista sul fatto che possa, che sia realistico, ecco, no. Però magari basta. Io prego. Invece volevo portare a coscienza un fenomeno che non so, che ho verificato. Io mi chiamo Elisabetta. Volevo portare. È mia moglie, Non è necessario dirlo. C'è un fenomeno particolare che io non so se altri non hanno notato, che si verifica ultimamente, che è molto interessante, che fa parte probabilmente di queste strane strategie di adattamento delle due lingue. Io non so se succede anche a voi, se qualcuno lavora in uffici con altre persone di madrelingua tedesca, italiani e sudtirolesi insieme, no? Succede spesso nei nostri uffici, no? Sì. Io lavoro in un ufficio così. Ora, quello che succede è che tutti noi vogliamo migliorarci nell'altra lingua, no? Noi abbiamo bisogno di migliorarci in tedesco e loro hanno bisogno di migliorarsi nella lingua italiana, perché anche loro fanno fatica a parlare italiano spesso. Allora, cosa succede? C'è uno strano fenomeno che io ho notato, che è molto divertente, che succede che più delle volte, quando una mia collega sudtirolese è insieme a me, cominciamo a parlare, io comincio a parlare in tedesco con lei, lei mi risponde in italiano, io continuo a parlare con lei in tedesco e lei continua a parlare con me in italiano, e questa cosa diventa uno strano gioco bellissimo, perché alla fine ognuno di noi si ritrova a parlare la lingua dell'altro, cioè quella che non sa. Ma succede spessissimo. Ti devo dare. Succede anche a voi questo, non so se c'è un fenomeno molto particolare. Oppure visto, vero? Oppure visto, messo, messo. Professore, cosa ne pensa di questa attività? Io devo andare via per 10 minuti. Grazie, devi rispondere a che ora. Perché tua moglie non è tua moglie. No, come qualcuno ha detto. No, appunto, qui si tratta di nuovo di strategie linguistiche. E le strategie linguistiche sono tutte valide. Ma questo è uno strano fenomeno, però, no? Però alla fine così anche si impara, cioè parlando continuamente la lingua dell'altro. Cioè, lui parla la tua e tu parli la sua. Comunque io per esperienza. Lo fai perché vuoi imparare la sua. Sì. Però se posso. Posso io. Aspetta che gli racconto la storiella qui della. Adesso non la leggo perché la racconto brevemente, di una ragazza tedesca che fa fatica a imparare l'italiano, che però d'estate va a Jesolo a passare questa settimana, no? E ci va con gli amici e questa qua però fa fatica, perciò va in pizzeria e vuole parlare italiano, però il cameriere le risponde sempre in tedesco perché capisce che fa fatica e il cameriere continua a rispondere in tedesco. E lei chiede questo, chiede quell'altro, e il cameriere continua a rispondere in tedesco. E lei si fa tutti i ragionamenti, forse perché vuole essere gentile, forse perché vuole imparare anche lui, forse per questo, per quell'altro. Alla fine non ce la fa più e dice: siamo in Italia, qui si parla italiano. Io voglio fare una chiosa a questa interessante vicenda, che veramente, no, vedete come questo rilievo di situazioni paradossali. Parlavamo prima di quello che va in Germania, a Berlino, lì parla italiano, questi qui nell'ufficio, che allora, passati da un tempo in cui magari si faceva a gara a non parlare la lingua dell'altro e quindi chiaramente non si imparava per questo motivo, ah ecco, adesso si fa a gara a parlare la lingua dell'altro e quello non te la fa parlare perché dice vabbè, ma così perdo tempo, e quindi parliamo la tua, dice no, ma io la mia no, perché se no non imparo nulla, e allora sei egoista, te la vuoi tenere per te, te la vuoi tenere per te la lingua, no? Diventano macchiette quasi da spettacolo. Questo proprio ci fa capire che la via è estremamente fruttuosa. Un fatto che sicuramente aiuta a imparare, e qui secondo me l'autonomia, che ci ha levato il peso di dover per forza, altrimenti si moriva, imparare la lingua dell'altro, per ovvi motivi, cioè si leva la violenza viene attutita. Cioè quindi uno dà il diritto, tu puoi conoscerla per esempio la lingua, però io per esempio ho il patentino, volendo io, quando ho fatto, io sono tornato dalla Germania, sono stato in Germania 2 anni a lavorare, a studiare, sono tornato perché sapevo molto bene il tedesco, cioè sono venuto qui, io non stavo qui, stavo in Toscana, sono andato in Germania, ho imparato il tedesco bene, sono venuto qui, sapevo bene il tedesco. Sapevo bene l'Hochdeutsch, ma adesso l'Hochdeutsch non lo parlo più. Perché non lo parlo più? Perché non mi serve a nulla, e perché, e soprattutto perché sono pigro, nel senso che tanto qualcuno che mi capisce lo trovo, non c'ho, cioè se tu mi togli il contesto di obbligo, io per esempio non devo mai scrivere in tedesco, tanto scrivo in tedesco, a chi scrivo in tedesco? A me, perché a te, però mi vergogno. Mi vergogno perché lui lo sa meglio, e allora poi magari faccio, se scrivo mi faccio rivedere la cosa da mia moglie, ma poi dico, ma chi me lo fa? Ma perché mi devo far vedere? Cioè io scrivo in italiano, chi se ne frega. Tanto poi se lui scrive in tedesco lo capisco e me ne frega nulla. E così via. Cioè c'è una specie di. Ci si avvita su perché questa quindi è una situazione sia positiva, ma paradossalmente produce pigrizia. Cioè lo statuto di autonomia ha prodotto anche pigrizia, e scardinare la pigrizia, purtroppo, qui secondo me la ricetta forse in realtà c'è, ma è estremamente complessa da mettere in atto, è quella di ritagliare strategie di apprendimento su misura. Nel momento in cui uno capisce la propria biografia e capisce di cosa ha bisogno, dovrebbe avere una specie di consulente privato che alla luce di uno psicologo della lingua, uno psicanalista della lingua, che poi ti indirizza sul miglior percorso, ed è un miglior percorso che probabilmente uno deve costruirsi facendo un po' un puzzle tra diverse possibilità, per cui sì, guardi, mandi i figli in quella scuola lì, no, però forse è meglio se fa un anno soltanto di là, poi il soggiorno me lo fa, capisce? Come una specie di dieta, ecco, la dieta, no, in cui e questo dobbiamo un po' capire che sarà un po' il futuro, perché comunque questo garantisce anche più pluralità, mentre il discorso veramente ingenuo che si faceva una volta, facciamo la scuola bilingue dove vanno tutti, quindi distruggiamo le sensibilità reciproche, costringiamo gli insegnanti a diventare bilingui quando magari non lo vogliono fare, cioè avremmo veramente marciato in una direzione di caos totale, e forse adesso lentamente lo stiamo vedendo, che dobbiamo deideologizzare la questione della lingua e renderla veramente molto pragmatica, molto vicina alle cose e alle storie individuali. Costa, qui c'è da aggiungere un'altra cosa. Costa fatica. Molto importante su questa cosa qua. Cioè, la lingua, cosa vuol dire conoscere una lingua? Cioè, chi mi sa dire cosa vuol dire conoscere una lingua? Dipende dal concetto. Ci sono, adesso l'Unione Europea, oltre alle carote, si occupa anche dei livelli di competenza linguistica, A1, A2, B, C e così via, no? Va bene, abbiamo delle regole neanche di standard, delle regole burocratiche che poi in qualche modo devono essere applicate e vengono applicate più o meno. Questa è la stessa cosa, parla un buon italiano, che vuol dire? No? In che contesto? Cioè, un professore dell'Accademia dei Lincei in un contesto di una borgata romana parla un pessimo italiano, perché non è quello che deve parlare lì. Cioè, questo, il buon italiano, l'italiano per esempio, cioè, vale per tutte le lingue, e di nuovo abbiamo come paragone, come ideale, una cosa di nuovo reificata, cioè la lingua, non so di chi, di Manzoni, di non so chi, di qualcuno che noi consideriamo la lingua ideale, e sulla base di questo poi dopo vediamo quante gli altri si avvicinano. Mm. Creando uno stress terribile. Uno stress terribile, no? Di cui per fortuna i giovani non ne frega nulla, romano, per fortuna. Sì, per fortuna, ma anche no. C'è qualche altro intervento? Bruno Maria? No, io devo purtroppo andare via, volevo solo dire una cosa che mi sembra molto importante. Che c'entra e non c'entra. Tirami sui due libri, tutti e due, per piacere. Ecco, le due copertine. Ecco, qui io ho trovato una cosa interessantissima, i colori delle due copertine. Mm, cioè, sì. Nella copertina del libro tedesco è più... Color caca. Assolutamente la caca non c'entra. L'altro non l'ho vista, perché poi mi sembra molto chiaretta con caca, comunque non ricordo. Sarebbe molto malata. Ecco appunto, una caca malata. Non scendiamo ora nello scatolone. No, voglio dire, no, non ho nessuna intenzione, ma voglio dire che questa è la parte, secondo me, però sì. Questo è di nuovo quello che tu dici, cioè la lingua di scelta mia, cioè sì. Che la lingua di scelta mia non so qual è, perché non lo so, perché veramente non lo so. Comunque diciamo... che lì io mi sento a casa, qui no, perché mi è troppo bianco. Io gliel'ho detto. È troppo bianco anche per me, ecco. Comunque se uno lo legge, molto con le mani non pulite diventa grigino. Allora sì, io mi scuso un'altra volta, tu come facciamo? Ti chiamo. Grazie, scusa. Mercoledì, vero Bruna? Mercoledì. Perché mercoledì? Mercoledì è martedì. Potete telefonare? No, oggi è lunedì, domani non è. Ciao. Gli appuntamenti privati fuori. Ma io volevo dire una cosa. C'era una signora, anche chi è che volete bene i due interventi? Prego. Volevo. Sì. Scusi, ecco. Ho due figli, uno di 41 e uno di 44 anni. Sì. Mi volevo riallacciare al discorso della signora per dire che non tutte le famiglie italiane spingevano i figli a non amare il tedesco. Anche certe famiglie tedesche facevano la stessa cosa. Tutte, mai tutte. E i miei figli sono andati a scuola a Gries e cosa ne direbbe? Del fatto che le pause degli italiani e dei tedeschi erano differenziate, ecco, non davano la possibilità ai bambini di frequentarsi, di conoscersi. Solo i bambini handicappati tedeschi potevano avevano la pausa alla stessa ora dei nostri. Quindi ci sarebbero tante cose. Mia figlia adesso abita in Germania, si è sposato un bavarese, tanto per dire, mio figlio tedesco lo parlo perfettamente, l'ho anche insegnato, però qui in quei tempi, ecco, in quel lasso di tempo, non si sono sentiti stimolati ad amare questa lingua. Dopo l'hanno apprezzata, l'hanno imparata. Ma guarda la tua madre. Questo è un'osservazione assolutamente giusta e pertinente. Signora, prego. No, io volevo dire che i miei genitori, mia mamma viene, è veneta, mio padre è trentino, non mi hanno mai presentato l'altro gruppo in maniera brutta, mi hanno sempre mi hanno mandato in Germania quando avevo 16 anni e poi dicevo anche questa cosa negli uffici, voglio dire che uno cerca di parlare una lingua e l'altro non risponde bene. No, ma io nel mio ufficio, ad esempio, quando è arrivata una ragazza del Renault che l'italiano lo sapeva tanto bene, ci hanno fatto una proposta: una settimana parliamo in italiano, una settimana parliamo in tedesco. E così adesso parliamo misto. Come ci viene? Anche da solo tante. Visto. Sì, ma ci questa sono. È proprio una specie di gioco quasi alle volte. Sì, no? Se si uno non riesce a fare, senza neanche poi bisogna deciderla. Poi le persone non vengono corrette, perché è faticoso. E allora io lo capisco quando si lavora parecchie ore insieme, io infatti lo faccio, io correggo le persone quando... Cioè, sì, ma quello che a me interessa di tutto questo è il fatto che il problema linguistico da noi è così forte perché è evidente che non è solo il problema linguistico, qua c'è il problema di avvicinare due popoli, no? In qualche maniera, e in qualche maniera hanno tenuto distanza in tutti questi anni, attraverso questo falso con due popoli problema, dividerli per proteggere. La lingua serve a quello in questo caso. Ci sono dei gruppi misti, però. Sì. Giacometti, a conferma di quello che dice Eleonora, posso confermare anch'io, avendo io l'occasione di passare alcuni mesi al mare in Croazia, dove la maggior parte dei turisti sono germanici, è l'unico luogo, l'unico posto dove io mi sfogo, dico la verità, fra virgolette, a parlare il tedesco, perché non vengo corretto, anzi vengo anche complimentato, perché mi dicono i germanici, ma come, che bravo che sei, che tu italiano parli tedesco, così. Poi mi vergogno. E lei diceva che vengo anche da Perugia. Fatto gli stranieri. Delle correzioni mi sento più libero e viene di qualità spontaneo, naturale, come mi venga poi il tedesco è tutto un altro discorso, però riesco a esprimermi e a farmi capire. C'è nel libro, un caso simile di una ragazza che si vergogna, quando c'è qualcuno che lo sa meglio si blocca, chiaramente. Se uno è contornato da persone che lo sanno meglio e ti guardano con sospetto, come fai a sentirti libero? Invece in Germania, ecco perché appunto tanta gente va in Germania e dice, vabbè, io ho un amico anche, andava in Germania, diceva a parlare tedesco, ma come sta a Fifiteno? E parla tutti tedesco, come diceva, non capisci, io effettivamente non capivo a quel tempo, non capisci che io qua non lo posso parlare tedesco, poi c'era la questione del dialetto eccetera, però non lo posso parlare, però è anche vero che era un... alla fine uno se lo vuole lo può parlare, però è anche vero che comunque è difficile volerlo a tutti i costi se in qualche modo sei giudicato, cioè è tutto un nodo, un groviglio abbastanza... Non è solo di essere giudicati, è che soprattutto a Bolzano ad esempio le persone di madrelingua tedesca sanno l'italiano molto meglio di quello che del tedesco che sanno le persone di madrelingua. Adesso sì, mi è venuta una domanda. Bene. Noi festeggiamo questo momento. Si sente tante volte l'obiezione, i tedeschi, dall'italiano. Ah, i tedeschi parlano tutti dialetto, quindi non impariamo tedesco perché tanto è dialetto. Io ho fatto tante volte, sì, il luogo comune si sa, ma voi forse mi chiedo se l'avete fatto e cosa, ho provato a confrontare la lingua tedesca col dialetto. Ho trovato pochissimi errori. Il dialetto solo se le mangia le desinenze, Einen non si sente, ma si sente che c'è. Allora gli italiani dicono, ma se no gli errori, il terzo caso, il quarto caso, il verbo alla fine, tutto questo, c'è nel dialetto. Allora perché si dovrebbe dire, io ho sempre detto, ma perché qua il dialetto? Ora purtroppo non abbiamo le tre ore che ci servono per approfondire questo aspetto. Tony, una battuta su questo? Sì, Tony, una battuta. Tony è forse il massimo esperto di questa questione che sta qui in questa città, diamogli questa oretta di tempo per spiegarci. Non esiste, nessuna lingua è una lingua unica. ogni lingua è composta di molte lingue, e tra queste molte lingue ci sono alcune che sono più vicine a quello che viene considerato standard e altre un po' più lontane. Ora, il dialetto in Alto Adige è un problema enorme, perché sappiamo, ci sono anche racconti qui dentro, che ogni paese parla un po' diversamente, cioè come tutti i dialetti in tutti i posti, non è solo l'Italia, l'Italia, l'Italia, l'Italia. Cioè, mica capiamo tutti. E ci sono dei dialetti più vicini allo standard, scusate, e altri meno vicini. Nel frattempo si parla questo bolzanese dialettale, che è dialetto addomesticato. Addomesticato, sì. Che è molto vicino allo standard, effettivamente, allo standard austriaco. Però noi a scuola impariamo lo standard germanico. Come si fa? Perché noi a scuola impariamo lo standard germanico e non quello austriaco? No, chiaro che è un falso problema, perché tutto è tedesco, è tutto tedesco, cioè uno non può dire questo è il tedesco e questo non lo è, a parte che qui c'è un personaggio, questo qua, che gira con le bombolette, dice a un certo punto, essere bilingue vuol dire sapere due lingue, non un dialetto e una lingua, no? Cioè questo è un'altra immaginario nel quale noi ci troviamo. Dio è un veneziano che lui parla un dialetto, cioè ti butta nel canale, come minimo. Adesso è anche facile perché l'acqua è dappertutto. E i toscani? È chiaro. Non ho scelto, i toscani sono stati. Prego. Prego. Mi chiamo Giacomo. Volevo dire che la questione della lingua qua in Alto Adige nasce la difficoltà fin da quando si è bambini, perché ci sono questi conflitti. I bambini italiani contro i tedeschi contro gli italiani, cosa che poi col tempo si risolve e ognuno più o meno impara il tedesco o l'italiano, a parte i casi limite in cui ho avuto degli allievi che insegnavo tedesco, che erano, li dichiaravo o diciamo, pensavo che erano negati a imparare una lingua straniera. Ci sono di quelle persone che sono negate, che fanno più difficoltà, però non sono molto contenti, ma ci sono quelle negate, è vero. Sì, sì. Come, ma questo non è il problema di più. Ora poi la questione è che qui questa cosa qua, questi conflitti da noi in Alto Adige dureranno un po' per sempre, perché ognuno che è di madrelingua tedesca si bea di saper parlare bene l'italiano e vuole anche, si parla di buona volontà naturalmente, chiunque sia di buona volontà per imparare le lingue, no? L'una e l'altra, e chi è italiano anche è onorato, si sente onorato, si sente appagato e gratificato a parlare tedesco, no? E questo però non esclude questo problema conflittuale che continuerà un po' a esistere, perché come diceva lei prima, più si è vicini più c'è un conflitto, tante volte i lontani non contano, no? Il vicino di casa non è proprio il miglior amico, è sempre così. Vediamo noi in Toscana, per esempio, con i fiorentini, noi livornesi, sì. Ma con i pisani, hai capito? Il vicino di casa sono a 20 km. Va bene, come diceva lei, il morto in casa, la lingua è un po' come respirare. È vero che fa parte della natura dell'uomo parlare, no? Il respirare non si fa, non dobbiamo sicuramente impararlo, però una lingua è fatta di toni e vocaboli e segni che insomma bisogna proprio imparare. Allora, allontanando tutte queste cose conflittuali, dico, io anni fa ho frequentato un corso di francese a Bolzano. L'insegnante era di madrelingua francese, un francese proprio, e non l'ho mai sentito parlare in italiano dal primo giorno in cui sono andato in classe, scuola privata però, devo dire anche che nelle scuole pubbliche a Bolzano la lingua straniera, l'italiano e rispettivamente il tedesco, si insegna poco, poche ore, no? E fa parte della fila di materie che si deve imparare. Poche ore no. Le stesse ore dell'italiano. Poche ore no, sono molte, moltissime. Adesso non so più come sia. Fino alla maturità sono quasi 2000 ore, 2900 euro. È sempre una cosa con vista, gli studenti sono troppo affaticati. 1900, quasi 2000 ore. Ho frequentato, diciamo, per 4 anni scolastici e intensamente, no? Dopodiché andai in Francia. Mi sembrava di essere un franco in francese, non avevo mai sentito il nostro insegnante parlare né in tedesco né in italiano né in nessun'altra lingua, solo in francese. Ecco che quindi, se c'è la buona volontà, una persona impara perfettamente una lingua, perfettamente le lingue. Perfettamente, cioè, bene. Dipende dai suoi scopi. Dalla quantità, però si può. Cosa che qui da noi in Alto Adige manca un po' la volontà. È un po' difficile, manca la volontà. Lo studente è intelligente, ma non si ha. C'è il conflitto. Quindi, per esempio, in Francia si deve parlare francese. In Francia nessuno ti ascolta se non parli francese. I francesi parlano solo francese. E tu non puoi andare in Francia a parlare un'altra lingua. Ma non è bello. Non è bello. Comunque poi non è bello. Non è neanche tanto vero. Non è più così vero, che in Francia. Grazie della testimonianza. Forse hanno cambiato anche i francesi. Sì, sì. Grazie della testimonianza. Allora, se non ci sono altri interventi, io prima di fare l'applauso a Tony, eccetera, volevo, visto che vedo Renato. Vedo Renato. E due cose, prima di tutto che i libri sono acquistabili e ce l'ha, guarda quanto ce l'ha, e non è che li può leggere tutti Renato, perché anche è lo stesso libro, quindi si consiglia vivamente. Poi che per quanto mi riguarda, e ci tengo a dirlo perché è un appuntamento abbastanza importante, anche se alle 8:30 di giovedì, vero Renato, giovedì alla libreria Colibri di Bolzano c'è un incontro con, forse, quello che a me sembra, e non solo a me, lo scrittore in lingua italiana più interessante dell'Alto Adige, che si chiama Alessandro Banda. Alessandro Banda scrive per importanti case editrici, Guanda e Einaudi. Ha pubblicato di recente un libro sull'Alto Adige che si chiama Due mondi e io vengo dall'altro, e un libro su Catullo. Noi cercheremo di farli giocare l'uno contro l'altro, io non so neanche cosa riuscirò a dire. Questo è anche un tizio, un po' un artista, uno molto, però comunque è uno che non si vede spesso, per cui se avete voglia e vi interessa la letteratura potete venire giovedì alle 20:30 a Colibri. I libri sono lì, io ringrazio. Alle 18, non alle 20:30. Alle 20:30. Alle 20:30. Sì. Banda alle 20:30. Ah, Banda fa l'eccezione. Banda fa l'eccezione, no, ma è un problema mio che prima io purtroppo sono impegnato, quindi alle 20:30 lì ci sono i cosi, lì ci sono i libri. Grazie a Tony Collezzetto.